Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore. Buonasera, buonasera a tutti, vombati e vombattesse. Io sono Mario e sono qui assieme a Ginox, che in realtà non è fisicamente presente accanto a me, ma la cui voce sentirete più avanti, per tenervi compagnia con uno speciale da un'oretta. In questi giorni difficili di isolamento e Covid cerchiamo di tenervi sì compagnia, ma anche di fare approfondimento, inchiesta. Come sa magari chi ascolta le nostre dirette che ogni giorno vanno in onda dalle 19 o gli altri programmi che non si fermano o gli speciali come questo che andiamo a realizzare. Questo in particolare di oggi vuole essere uno speciale sul rapporto che ogni anno viene pubblicato dagli apparati di sicurezza dello Stato e che è un rapporto sul una relazione annuale che viene presentata al Parlamento e che analizza le minacce alla sicurezza che si sono svolte in Italia nell'anno appena trascorso. Dunque, l'abbiamo pensata, questa puntata è divisa in due parti. La prima vuole andare a approfondire gli aspetti legati all'antagonismo, la seconda parte vuole riguardare invece gli aspetti legati alla cybersicurezza. In questa prima parte infatti andiamo a fare riferimento al documento che potete trovare tutti sul sito sicurezzanazionale.gov.it nella sezione documentazione. Cliccando là dentro in relazione al Parlamento si può leggere o scaricare in PDF, in EPUB, la relazione annuale di quest'anno ma anche quella degli anni scorsi a cui comunque vogliamo fare riferimento. Beh, è una relazione intanto, diciamolo, molto, molto interessante sia per quelli che sono gli appunti riguardo allo scenario, al quadro internazionale, sia per quanto riguarda noi e quindi ci importa molto vedere qual è lo sguardo del nemico sulle nostre lotte e sulle nostre battaglie. L'andiamo subito ad aprire e ecco, intanto vediamo che nella prima parte di questa relazione, è una relazione piuttosto lunga, 100-150 pagine, nelle prime parti si parla di scenari geopolitici divisi per blocchi geografici, dal Nord Africa fino ai Balcani, l'America Latina e così via, senza mancare di affrontare quelli che sono gli assetti strategici italiani, la questione dell'Unione Europea, l'approvvigionamento delle risorse energetiche, la direzione verso lo spazio, ma anche le crisi economiche, il terrorismo jihadista, l'immigrazione clandestina, se si può dire così, le organizzazioni criminali mafiose e così via. Una parte che ci riguarda direttamente è quella che invece si chiama intitolata Eversione ed estremismi. Nel rapporto è a pagina 95 ed è ormai da molti anni divisa in quattro parti. Le quattro parti sono la prima, l'anarco-insurrezionalismo, poi i circuiti marxisti-leninisti, la terza il movimento antagonista e infine la destra radicale. Questa è la prima parte, quella legata all'antagonismo, quella che affronterò io adesso con voi, per lasciare poi parola a Ginox per la seconda parte, quella sulla cyber security, che oltre a questo rapporto dei servizi andrà ad approfondire anche il rapporto del CLUSIT, che sarebbe l'associazione italiana per la sicurezza informatica. Subito Soprattutto questa seconda parte è scritta con un linguaggio tecnico, burocratico, e quindi mi è sembrato decisamente il caso di farmi aiutare, anzi di passare proprio parola a Ginox, che gli ascoltatori fra l'altro di Radio Wombat conosceranno bene, almeno per la trasmissione Coccoli al Silicio, che va in onda ogni lunedì sera alle 21 e che riguarda cose informaticose, diavolerie tecnologiche, antiche, presenti e future o futuribili, e mi sembrava decisamente la persona giusta a cui lasciare parola per approfondire questo aspetto. Per quanto riguarda me, invece, andiamo a vedere che cosa i servizi, che cosa il nostro nemico dice sulle nostre lotte e quali sono le analisi che sono svolte su questo. Mi sembrava anche importante prendere un po' la rincorsa, quindi direi che è il caso di partire almeno dal rapporto del 2017, anche per vedere qual è l'evoluzione, il trend che si può riscontrare in questi rapporti. La relazione del 2017 che riguarda quindi le minacce alla sicurezza dell'anno 2016, cioè l'anno precedente. Una cosa che subito salta all'occhio è la diversità fra queste quattro parti che dicevo prima. Mentre infatti sono dedicate ben 8 pagine e mezzo in questo rapporto del 2017 alle versioni di sinistra, una paginetta appena invece è dedicata ai gruppi fascisti. Questo rimane costante negli anni, ma va via via ad attenuarsi fino a trovare nel rapporto ultimo, quello di quest'anno, che fra l'altro è stato pubblicato a marzo, un po' in ritardo rispetto alla scadenza consueta di febbraio, dicevo, va ad attenuarsi un po' la differenza. Infatti andiamo a trovare meno pagine sugli antagonismi di sinistra e una pagina in più sull'analisi dei gruppi neofascisti, anzi anche senza neo. Per quanto riguarda comunque, per tornare al report del 2017, intanto vediamo quello che è un trend, che è una tendenza che rimarrà anche negli anni dopo. La prima parte, quindi quella sugli anarchici insurrezionalisti, è già interessante per il fatto che essi sono presentati sostanzialmente come delle caricature, sono bombaroli, sono questo e basta. Non manca di continuare questa visione, anche se nel rapporto, devo dire, del 2020 invece sono analizzati con un'intensità maggiore i gruppi definiti anarchico-insurrezionalisti. E andiamo a leggere direttamente dal rapporto 2017, dove vediamo, a questo proposito, leggiamo: sul versante di piazza, l'area antagonista, probabilmente anche a causa della sua frammentazione, non è riuscita a coinvolgere nelle mobilitazioni il nuovo proletariato urbano. Questo scrivono i servizi nella sezione dedicata all'anarco-insurrezionalismo, ma che ripetono anche nelle sezioni successive. Ripeto, probabilmente anche a causa della sua frammentazione, dicono, il movimento non è riuscito a coinvolgere nelle mobilitazioni il nuovo proletariato urbano. È infatti interessante questo, perché è una tendenza comune anche ai rapporti successivi, salvo poi anche questa scemare con l'andare degli anni. Sembrano insomma dire fra le righe, ma nemmeno troppo fra le righe, qualcosa del tipo: meno male che questi sono divisi, perché a livello numerico ci sono, ma non fanno presa proprio per la loro frammentazione interna. E questo penso ci possa servire anche in qualche modo da lezione. Sempre nel rapporto del 2017 è molto interessante quanto viene detto riguardo al movimento NOTAV, che era allora quello più attenzionato in assoluto dai servizi e anche quello più colpito, fra l'altro, dalla repressione giudiziaria e poliziesca. Ecco, dicono: sul versante delle lotte ambientaliste, la campagna contro l'alta velocità in Val di Susa, considerata emblema delle lotte di resistenza popolari contro le imposizioni dello Stato, ha attraversato una fase di minor vigore, anche a causa del persistere delle divergenze strategiche operative fra gli attivisti che animano la protesta. Di nuovo ritorna una divisione come occasione di non pericolosità per i servizi, ma anche viene rilevata l'importanza centrale, per quanto leggermente attenuata, del movimento NOTAV. Sempre in questo rapporto è sicuramente interessante anche Un altro aspetto che ora non leggo, ma che comunque vi racconto, ovvero quanto l'università sia ritenuta interessante per offrire materiali, conoscenze e anche individui in grado di accrescere il sistema per la sicurezza della Repubblica. Quindi l'università come luogo di produzione di documenti, contenuti anche nella creazione di strategie efficaci alla protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali, leggo questo, dell'Italia. Quindi già alcune cose le rileviamo da questo documento del 2017. Semiridicolizzazione dell'ambiente anarchico, una frammentazione fra i movimenti ritenuta come importante ai fini della loro non incisività e l'attenzione al movimento Notav ritenuto essere appunto il principale operante in Italia attorno al quale tutte le altre forze nazionali si stanno. Andiamo avanti negli anni e vediamo poi nel 2018. Leggo subito. Nel 2017, il report del 2018 fa appunto riferimento all'anno prima, quindi al 2017, nel 2017 il composito fronte antagonista ha continuato a contraddistinguersi per una certa fluidità e per l'assenza di un percorso politico e strategico comune. L'impiego delle formazioni di settore si è focalizzato sulla contestazione delle politiche europee e sulle molteplici esigenze sociali, specie le questioni migratoria, occupazionale, ambientalista e abitativa. Scrive questo il rapporto dei servizi segreti, facendo vedere quali che sono gli argomenti principali o anche i nemici principali individuati dagli antagonisti, ma rilevando ancora una volta quell'assenza di un percorso politico e strategico comune. E anche qua il sottotesto è grazie a Gesù. E chi fa movimento in realtà questa certa fluidità di cui parlano la conosce bene, ne conosce bene anche i limiti, ma anche del resto le ragioni. Sicuramente però è interessante vedere come a distanza di un anno venga di nuovo rilevato questo aspetto come centrale per definire una non sufficiente pericolosità degli antagonismi. Interessante anche sempre nel report del 2018 vedere come segnali di effervescenza sono in particolare stati registrati nel Movimento per l'Abitare, che ha cercato di fungere da segmento trainante, da fattore di aggregazione, tentando di allargare la base della protesta. Quindi quello che già nel report del 2017 era accennato ma marginale adesso acquisisce una rilevanza maggiore, ovvero la questione abitativa, quella degli alloggi, evidentemente perché la problematica è lungi dall'essere risolta, anzi probabilmente va via via inasprendosi. Facciamo un passo avanti, andiamo al 2019, nel rapporto dello scorso anno, che fa riferimento però all'anno precedente, quindi al 2018, dove quello che viene presentato in quelle pagine è invece un paese pressoché pacificato, direi quasi privo di conflitti, di sovversioni, e questo è particolarmente interessante se confrontato con gli anni prima, in cui era rilevata con forza la diversità degli approcci e delle strategie. Mentre in quest'anno, nel rapporto di quell'anno, dello scorso anno, l'analisi dei servizi fa vedere come siano in particolare le iniziative antifasciste e le mobilitazioni ambientali a essere, o territoriali, insomma, a essere quei fattori aggreganti residuali per il movimento, che ricordo è categorizzato in queste tre categorie: anarco-insurrezionalismo, marxismo-leninismo e antagonismo in generale. Viene presentata, dicevo, l'immagine di un paese socialmente pacificato, però è anche interessante proprio questo, cioè il fatto che non sia tanto la commissione di un reato essere rilevata in questo caso come problematica, come attenzionata dai servizi, ma quanto piuttosto l'esistenza stessa di soggetti che si muovono in una direzione diversa da quella sistemica, o che comunque muovono per un suo superamento o abbattimento. Andiamo a leggere in questa relazione, e ho un paio di appunti e qua leggiamo: l'eterogenea galassia dell'antagonismo si è distinta soprattutto per il tentativo di superare una persistente tendenza alla parcellizzazione delle lotte. Quindi viene di nuovo rilevata una certa tendenza, sebbene sia rilevata di anno in anno con maggiore, sia rilevata come sempre più residuale, insomma. Però una tendenza al superamento, alla parcellizzazione viene tuttora rilevata. Dicevo, l'eterogenea galassia dell'antagonismo si è distinta soprattutto per il tentativo di superare una persistente tendenza alla parcellizzazione delle lotte, così da dare maggiore compattezza al fronte della contestazione. Ancorché declinato su specifiche realtà del territorio nazionale, il dinamismo antagonista sul versante delle proteste ambientaliste ha ricercato convergenze e sinergie, con l'obiettivo di strumentalizzare in chiave oltranzista l'attività dei cosiddetti fronti del no, che si oppongono alla realizzazione di infrastrutture di vario genere, grandi opere, installazioni energetiche e militari, ripetitori, inceneritori, eccetera. Quindi quello che veniva visto come unicum in Italia, ossia il movimento NOTAV, adesso invece è definito il fronte del no, e assieme alla NOTAV viene visto il NOTAP, NOMUOS, o il NOINCH, o il NO aeroporto, per parlare di posti che ci sono più vicini qua a Firenze, quindi quelli della Piana. Però sicuramente la persistenza di battaglie legate alla questione territoriale è rilevata ancora come, o ambientale, diciamo, è rilevata ancora come quella principale, come fattore aggregante, assieme a quella, dicevo, dell'antifascismo. Infatti all'antifascismo militante viene proprio riservata una scheda particolare, dove c'è scritto questo: fra il resto, gli attivisti hanno provato a serrare i ranghi, concentrando la protesta antisistema sull'antifascismo e sull'antirazzismo, come testimoniato dalla manifestazione nazionale di Macerata del 10 febbraio. E non serve che introduca, perché sappiamo bene a cosa si fa riferimento. Oltre all'impegno sulla questione migratoria, che anch'esso viene rilevato con forza in questo rapporto, assieme a quello dell'antifascismo. Questi sono, nel 2019, che fa riferimento al 2018, i due fattori aggreganti, antifascismo e antirazzismo. In particolare, un clima generalmente pacificato, nel quale gli antagonismi non fanno così tanta paura, è sicuramente funzionale anche a portare fuori la tesi degli opposti estremismi. Su queste questioni, antifascismo, antirazzismo, e quindi due approcci diversi fra le destre, a cui continua a essere riservata una pagina appena, e agli antagonisti di sinistra, a cui invece le solite 7-8 pagine. Sulla questione antifascista, però, è molto interessante il fatto che venga rilevato un salto di qualità, proprio così viene definito dai servizi in questo rapporto, che da un antifascismo, diciamo, costituzionale e culturale si sposta invece su un piano militante. Io credo che questo sia anche, fra l'altro, funzionale a come del resto la tesi degli opposti estremismi, funzionale a preparare la direzione di una repressione dell'antifascismo in quanto tale, anziché delle singole azioni antifasciste, che pure voglio dire. E infatti in questo rapporto viene scritto questo, insieme, vabbè, lo sdoganamento dei fascisti coperti dagli apparati repressivi è qualcosa che evidentemente emerge da questo documento, nel quale fra il resto c'è scritto quanto segue. Nell'ambito della mai sopita ostilità fra estremismi di opposta matrice, l'antifa definisce la posizione più avanzata e intransigente dell'antagonismo di sinistra, nel contrasto alla destra, consistente in un impegno militante che privilegia la dimensione combattiva rispetto al confronto politico-culturale. Nel 2018 la propaganda e le pratiche della mobilitazione antifa hanno evidenziato una rinnovata radicalizzazione in relazione a una percepita crescita di visibilità e protagonismo dell'estrema destra su questioni riguardanti la sicurezza, l'immigrazione e il disagio sociale. In questo quadro sembrano inserirsi alcuni episodi di aggressione contro attivisti della destra radicale, danneggiamenti a sedi aggregative, nonché la divulgazione sul web di documenti e dossier dai toni istigatori. L'accentuata propensione allo scontro rischia di aggravare la conflittualità fra i due fronti, con una possibile intensificazione di provocazioni, aggressioni e reazioni in grado di generare criticità sul piano dell'ordine pubblico. Quindi siamo nel rapporto dello scorso anno e qui antifascismo militante e mobilitazioni ambientali sono le aree di interesse maggiore, sono quelli dove i servizi si concentrano di più e per cui spendono più pagine. Questo è rilevato come specialmente interessante anche in vista di una annunciata crisi ulteriore economica. Di fronte a un'ulteriore crisi economica seguirà, secondo i servizi, una crisi sociale e presentare questi estremismi in questo modo opposto e contrapposto come un problema in sé per sé di ordine pubblico, il loro scontro, ma anche la semplice esistenza di movimenti rivoluzionari o anche generalmente antagonisti, serve sicuramente a preparare una repressione che non è necessariamente basata su un'azione esatta, ma anche semplicemente verso chi si muove nello stesso ambito in un modo, diciamo, legale, perché diventa il sovversivo in quanto tale il problema piuttosto che l'occasione della misura repressiva, il fatto commesso in sé. Questa tendenza è ancora più netta nel rapporto del 2020, nel rapporto di quest'anno. E infatti veniamo qui. Ricordo, intanto lo linkeremo anche nel momento in cui pubblicheremo sul sito, sul blog della radio, linkeremo la pagina della relazione. Comunque ricordo che è sicurezzanazionale.gov.it, nella sezione documentazione, il luogo in cui si possono scaricare tutti questi rapporti, queste relazioni anche degli anni precedenti. Nel rapporto di quest'anno sicuramente è minore il numero di pagine dedicate alla cosiddetta eversione. È minore perché da 8 pagine che era nel 2017 diventa 5 pagine adesso, mentre la destra, che aveva una pagina scarsa, adesso ne conquista 2. Questo è un dato che mi sembrava interessante dare. Come al solito, nel documento di quest'anno è diviso in 4 categorie: anarchico, insurrezionalisti, marxisti-leninisti, movimenti antagonisti e destre radicali, che appunto hanno più del doppio dello spazio che avevano negli anni prima. Ho perso i miei appunti. E quella che viene data è una visione di nuovo pacificata ulteriormente rispetto a come era presentata pure l'anno prima, e quindi c'è una sensazione che sia, o almeno che io ho avuto leggendo questo documento, cioè quello dei servizi, di non trasmessa dai servizi, la sensazione cioè di non avere più troppi grattacapi che invece venivano messi più in evidenza, molto più in evidenza negli anni precedenti. Anche se è interessante l'ipotesi di recrudescenza del conflitto sul piano ideologico e storico, molto più che su quello attuale. Mentre infatti negli anni precedenti si parlava di movimenti ambientalisti esatti, o territoriali, come può essere, ma in generale direi antisistema, senza tante mezze misure, come può essere quello della TAV, o in seguito i vari fronti del no, che oltre al no TAV aggiungevano tutte le altre battaglie territoriali che si svolgevano nel paese, adesso, adesso invece l'attenzione è più rivolta sul piano ideologico, sul piano storico. Andiamo a prendere il documento di quest'anno. Andiamo a prendere il documento di quest'anno e vediamo quello che scrivono i servizi. L'attività costante di monitoraggio informativo assicurata dal comparto intelligence ha rilevato, in linea di continuità con gli ultimi anni, il proseguire dell'impegno divulgativo, specie la testimonianza di militanti storici e detenuti irriducibili, volto a tramandare la memoria degli anni di piombo e dell'esperienza delle organizzazioni combattenti. La propaganda si è in particolare rivolta, in un'ottica di proselitismo, a un uditorio giovanile, con un occhio di riguardo alla composita area dell'antagonismo di sinistra, sulle cui sensibilità risulta tarata una lettura trasversale, in chiave rivoluzionaria, dell'antifascismo, dell'antiimperialismo e dell'antimilitarismo, nonché delle questioni correlate al disagio sociale, dall'emergenza abitativa a quella migratoria, passando per le criticità del mondo del lavoro. Quindi queste tre A, antifascismo, antiimperialismo, antimilitarismo, sono quelle cercate con maggiore sono quelle riportate con maggiore insistenza dentro il report, che infatti sono in tutte e tre le sezioni, in quella anarchica, in quella marxista e in quella antagonista. Anche se le questioni ideologiche per i marxisti-leninisti sembrano essere più interessanti, o meglio più problematiche che per gli altri, per il nemico, voglio dire. A questo ultimo riguardo, infatti, faccio riferimento ai marxisti-leninisti, l'interesse dei loro circuiti verso delicate vertenze occupazionali nato sul territorio si è tradotto in tentativi, peraltro rimasti tali, di influenzare le rivendicazioni dei lavoratori per favorirne una trasposizione su un piano di conflitto politico-ideologico, nel segno della contrapposizione al sistema di produzione capitalistico. Si è mantenuta elevata inoltre l'attenzione delle componenti dell'area verso lo scenario estero. E infatti qui c'è un altro aspetto interessante, quello delle battaglie ritenute interessanti e importanti per gli internazionalisti. In questo anno sono quelle della resistenza curda del Rojava, ma anche la questione palestinese, due che ci sono dal report del 2017 sempre, sparisce del tutto, mentre era presente invece in quello fino all'anno prima, la questione del Donbass. In questi due ambiti sono proseguiti i contatti con formazioni straniere della medesima matrice ideologica, impegnate in campagne di solidarietà a rivoluzionari prigionieri. Ed ancora leggiamo: non è mancato, infine, da parte di tali ambienti, l'interesse nei confronti della situazione cilena, analizzata in connessione con le contestazioni registratesi in Libano, in Ecuador, ad Haiti, ad Hong Kong e in Francia. Proteste che, sotto la lente dell'internazionalismo marxista-leninista, sono viste come concreti segnali di una crisi globale del capitalismo e, come tali, quali altrettanti indicatori della perdurante validità ideologica e prassi rivoluzionaria. Infatti, come dicevo, antifascismo, antimilitarismo e ambientalismo sono proprio i settori sul quale gli apparati di sicurezza spendono più inchiostro e sui quali riversano maggiore attenzione. E scrivono anche questo: pur tradizionalmente fluido ed eterogeneo, il fronte del dissenso antagonista è parso trovare movimenti di coesione nelle mobilitazioni sviluppate attorno a tre temi: l'antifascismo, declinato principalmente come opposizione alle politiche di sicurezza e alla gestione dei flussi migratori, l'antimilitarismo e l'ambientalismo, nel cui ambito è riemersa la significativa valenza antisistema della lotta NOTAV. In questo contesto, l'intelligence ha continuato a rilevare i tentativi delle più agguerrite formazioni antagoniste di inserirsi in contestazioni, come quelle promosse dai cosiddetti fronti del no, contro la realizzazione di grandi opere infrastrutturali, per radicalizzarne le istanze. Ne è un esempio la protesta in Val di Susa, che in estate ha fatto registrare un ritorno a pratiche violente, come attestato dagli incidenti occorsi nella notte fra il 20 e il 21 luglio al cantiere di Chiomonte. Infatti la rilevanza continua del movimento NOTAV, motore diciamo dei fronti del no, è è mantenuta qui, non sparisce tutto questo interesse. Altre cose sono sull'antiimperialismo, l'anniversario che c'è stato ad aprile, il 70° anniversario della NATO, dell'Alleanza Atlantica. Ma invece, per quanto riguarda questo era a proposito di marxisti e antagonisti, e invece per quanto riguarda gli anarchico-insurrezionalisti, utilizzo ovviamente le parole dei servizi, eccoci che l'ho perso, eccoli, vengono stavolta presentati in modo meno caricaturale degli anni scorsi. Si parla di azioni dirette verso una serie di edifici o cose, come possono essere uffici postali, banche, ripetitori telefonici, linee ferroviarie, eccetera. E qua ancora la visione dell'anarchico bombarolo e basta, ma anche il sostegno ai militanti detenuti, che per la prima volta invece è presentato con una certa intensità. Si continua poi a parlare delle prassi operative, come quelle appunto del sabotaggio. Si fa riferimento ai danni ferroviari, ai danni allo snodo ferroviario dell'alta velocità di Rovezzano, quello qua vicino a Firenze, lo ricorderete, del 22 luglio, oppure quello del 6 novembre nei pressi della stazione Tiburtina, che sono stati appunto rivendicati con questo ultimo rivendicato con un comunicato. E si parla ancora di azioni contro le grandi opere, quindi segnatamente la TAV, scrivono i servizi, oltre che la TAP, ma anche una mobilitazione sia culturale sia per quanto possibile pratica, nel senso parlano di presidi di protesta e atti incendiari come quello di maggio a Firenze, danni di un ripetitore, contro il 5G. C'è poi ci sono degli schemi, delle grafiche che fanno vedere in Italia e nel mondo a cosa hanno mirato le varie azioni del gruppo, della componente anarchico-insurrezionalista, e viene data una speciale attenzione agli scambi ideologici e operativi fra anarchici italiani e omologhi stranieri, ma in particolare greci. E infatti c'è una scheda a sé sull'asse anarchico con la Grecia. Queste sono delle attenzioni che mancavano un po' nei report degli anni scorsi, in effetti, però allo stesso tempo in generale il numero di pagine dedicate a questi antagonismi di sinistra, diciamo così, sono diminuiti a favore in realtà di un accresciuto spazio per la destra radicale. E infatti qui sulla destra radicale è importante rilevare un paio di cose. La prima, che sono innanzitutto attenzionati gli esteri, cioè prima di tutto si fa un largo riferimento in questa pagina in più che c'era rispetto ai report degli anni precedenti su cosa è successo all'estero, quali sono stati gli attentati fascisti o nazisti fuori dall'Italia. Mentre in Italia, di nuovo, così come si faceva nei confronti dei marxisti-leninisti sulla questione degli anni di piombo, sull'esaltazione di alcune figure come l'Alioce ed altre che sono citate nel report, anche qua si fa riferimento alla questione ideologica che infatti presenta questo. Una galassia militante, quella nazista, quella fascista, che si è caratterizzata per una comunanza di visione su alcuni temi, quali la rivendicazione identitaria e l'avversione all'immigrazione, al multiculturalismo e alle istituzioni europee, oltre che per momenti di corale, quanto estemporanea, convergenza in occasioni di appuntamenti politico-culturali e commemorativi sul fascismo delle origini. In particolare, la preoccupazione dei servizi è quella delle contrapposizioni fisiche che vi sono nelle specie nelle periferie urbane, fra organizzazioni di sinistra di classe e i fascisti. Sembra che sia questo, infatti, il problema principale, anzi, è questo il problema principale rilevato dai servizi per quanto riguarda i fascisti, cioè le questioni di ordine pubblico date da presidi che si scontrano, da cortei e contro cortei. E infatti, fra le altre cose, leggiamo, vado un po' avanti, un'inclinazione, quella dei fascisti, non nuova, ad innestarsi sulle situazioni di disagio, polarizzandole, che non ha mancato di produrre effetti rilevanti per l'ordine pubblico, come avvenuto nella capitale, nei casi in cui le contestazioni contro i centri di accoglienza e l'assegnazione di alloggi a stranieri e rom sono sfociate in scontri di piazza. Quindi è proprio questa la questione. Nelle metropoli le contrapposizioni dei gruppi di sinistra assieme ai gruppi contro i gruppi e i gruppi di destra. E infatti leggiamo: proprio l'impegno su tematiche sociali e su materie tradizionalmente appannaggio dell'antagonismo di sinistra, e ancor più la decisa opposizione ai flussi migratori, declinata con un registro chiaramente xenofobo e razzista, hanno alimentato dinamiche fortemente conflittuali, con militanza di opposto segno ideologico, tradottesi in reciproche provocazioni ed aggressioni. È infine abbastanza interessante, anzi io direi parecchio interessante, il fatto che si faccia riferimento, fra i molti casi, è inutile, allora, riprendo un attimo la relazione, riprendiamo un attimo il documento nella parte sull'anarco-insurrezionalismo, mentre lì si fa riferimento a operazioni esatte come l'operazione Scintilla che si è svolta fra gli anarchici torinesi, o l'operazione Renata che ha riguardato gli anarchici trentini, nella questione riguardo ai fascisti si fa, fra le molte in realtà indagini, inchieste che si sono svolte, si fa riferimento soltanto a una, quella che il 28 novembre, fra le operazioni di polizia condotte nel 2019 in direzione di soggetti di orientamento nazifascista, 28 novembre, interessate alcune città, e ha portato all'arresto di 3 persone, al sequestro di armi e munizioni, documenti apologetici e pubblicazioni sul nazionalsocialismo hitleriano, bandiere naziste e simboli delle SS. L'attività ha permesso di evidenziare l'interazione e l'intenzione di dar vita ad un partito nazionalsocialista italiano dei lavoratori, attestato su posizioni dichiaratamente antisemite. Questo è l'unica inchiesta citata nella sezione sulle destre, quando in realtà ci vengono in mente delle assenze pesanti, sicuramente, come può essere quella del missile trovato, il missile aria-aria, quello trovato a Torino all'ex militante di Forza Nuova, che poi prima o poi qualcuno mi dice che cosa ci deve fare, anzi in realtà lo so che cosa ci deve fare con un missile aria-aria, che quindi si spara ad aereo e che in realtà stava provando a vendere, ricordate, fra l'altro mandando un messaggio WhatsApp a uno svizzero, e per questo si è fatto prendere il tipo che fra l'altro faceva casino all'aeroporto, mi ricordo, con la dogana, incassava. Comunque lo vado a ricercare più tardi e magari monto una parte migliore qua, ma comunque, e l'altra che è mancata, quella avvenuta qua in Toscana nel Senese, quando padre e figlio sono stati arrestati per possesso, oltre della solita schifo paccottiglia, gagliardetti, immagini, bandiere e cialtronerie varie, anche per il possesso di un arsenale vero e proprio, incredibile. E poi hanno portato all'indagine di moltissime persone, il tipo che lavorava alla banca del Monte dei Paschi di Siena e che faceva proselitismo fra i lavoratori. Tutto questo è del tutto assente nel report, e quello che è il problema principale che viene rilevato nei confronti dell'estrema destra quest'anno è la questione dell'ordine pubblico che si svolge nelle periferie delle città italiane, in particolare a Roma, fra militanti di opposto segno. Questo è quello che andiamo a leggere quest'anno nel rapporto dei servizi. Per quanto riguarda appunto la sezione sull'antagonismo, una parte ancora interessante, molto, è quella sulla cybersicurezza, come accennavo nell'introduzione, che però non sono assolutamente in grado di svolgere io. Infatti sto per lasciare parola, anche perché è da tantissimo che sto parlando, a Ginox, che dopo la canzoncina che adesso mettiamo, così almeno per un attimo spezziamo questo flusso di voci, andrà ad approfondire prendendo sia l'allegato a questa relazione del 2019, che se la scaricate trovate da pagina 105 in poi, sia il rapporto del CLUSIT, che è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, e che, pur partendo anche da dati analoghi, o anzi identici, giungono anche a delle conclusioni differenti. Ma molto meglio di me questo lo sa dire Ginox, a cui sto per passare la parola. Ginox, che pur essendo il principe dell'informatica, ha deciso bene di saldare il cavetto soltanto dopo aver registrato, quindi sentirete la sua voce un po' distorta, però il mio invito è quello a prestare lo stesso molta attenzione, perché sono davvero davvero interessanti le cose che ha da dire. Io ho avuto occasione di sentirla un attimo prima di iniziare a registrare questa mia parte. E dunque pausa e ci sentiamo fra 3 minuti. Wombat. Ogni anno, più o meno in questo periodo, escono almeno due report interessanti riguardo alla, diciamo, agli attacchi informatici, alla cyber security e queste cose. Esce quello dei servizi, che è quello che stiamo commentando ora, e insieme esce anche, diciamo, poco dopo, quello del CLUSIT, che è una specie di organismo misto, che è di professionisti essenzialmente del ramo, che si occupa di tracciare una sorta di report dell'andamento degli attacchi informatici. In realtà quello del CLUSIT avrebbe ambizione di essere più generale, analizza più una situazione internazionale, poi nello specifico anche quella italiana l'analizza principalmente partendo da, diciamo, questo gruppo di monitoraggio interno alla rete Fastweb, quindi un gruppo di monitoraggio di attacchi informatici dentro l'autonomous system della rete Fastweb. Per autonomous system si intende quell'entità burocratico-tecnica in cui organizza solo l'internet, cioè internet è una cosa grossa, per gestire una cosa grossa si fa in modo che è una somma di reti, e quindi sì, ci sono tanti autonomous system. Questi autonomous system sono una sorta di unità tecnico-burocratica, per cui all'interno della rete Fastweb, che è composta di tante milioni di apparati, sono loro che gestiscono l'interno e si preoccupano di parlare all'esterno e dire agli altri autonomous system come è fatto il proprio, ed è così che funziona internet. Quindi i dati su cui si basa questo studio sono questi qui. Sembra, da quello che si legge nel report anche dei servizi, che anche in qualche modo ci sia una collaborazione, che è anche scritta in realtà nel report del CLUSIT, perché si nominano degli organismi che sono nominati anche nel report dei servizi. Quindi ci sono una serie di dati che sembrano messi in comune, anche se per motivi che proverò a capire le conclusioni dei due report non sembrano esattamente identiche. In particolare quello dei servizi, se dovessi dargli una prima valutazione, ecco, se da un punto di vista dell'utilizzo dell'italiano della leggibilità è veramente pessimo, nel senso che è scritto in un linguaggio fortemente burocratese, anche come è stato redatto, non sembra un report pubblico fatto per essere letto da un pubblico, ma sembra più una roba fatta come si potrebbe fare il rapporto al proprio superiore. Nello specifico io volevo leggere almeno una frase che secondo me rende bene il tipo di lessico utilizzato, probabilmente anche la mentalità che ci sta dietro. È una roba, si tratta sostanzialmente di un allegato al report più ampio, sta al fondo a pagina 105 o 104, non me lo ricordo. Voi trovate questo allegato, questa nota su la cyber security e come impatta questa roba sulla sicurezza nazionale secondo i nostri servizi segreti, quelli lì. Allora, la frase che vi volevo leggere è questa: nello sviluppo delle cennate operazioni, i gruppi APT hanno continuato a privilegiare la compromissione dei sistemi di gestione e smistamento della posta elettronica, in cui sono state inoculate sofisticate ed inedite versioni di artefatti malevoli. In tale ambito, l'intelligence ha avuto modo di rilevare come gli attaccanti abbiano monitorato le comunicazioni elettroniche scambiate da utenti del target, tra cui anche quelli di figure apicali, procedendo poi a sottrarre illecitamente i contenuti, il tutto in modo assolutamente stealth. È una frase secondo me bellissima. Vabbè, ci sono da spiegare un po' di cose. Quando loro parlano di gruppi APT, parlano essenzialmente di quello che viene definito come Advanced System Threat, che sarebbero quelle infrastrutture che in maniera stabile portano degli attacchi continuativi su internet. Di solito fanno capo a qualche grossa organizzazione, spesso statale, quindi hanno degli stati dietro, e sono strutture ben organizzate per portare attacchi anche su grandi su grossa scala, o comunque mirati, però sono strutturati in maniera non so come dire, riconoscibile nel tempo, cioè in un anno portano un sacco di attacchi e tutti questi attacchi sono riferibili a una certa infrastruttura, quindi non è una roba spot random di uno che si sveglia al mattino, zac, e questo è quanto. Ma la cosa interessante è se uno cerca di capire che cavolo c'è scritto in questa roba. C'è quello che c'è scritto, che questi APT quello che hanno fatto è mandare sostanzialmente della posta, delle mail farlocche, in cui speravano che il target di quella roba lì, l'allocco, cliccasse sull'allegato, su quello che veniva segnalato nella mail, e qua viene definito come inedite versione di artefatti malevoli, che è una roba a metà tra non lo so, Harry Potter è una partita di che ne so, di Age of Empire, non lo so, questa cosa dell'artefatto malevolo sta veramente di magia nera, di videogioco di quel tipo, insomma. E vabbè, comunque, esattamente quello che è stato fatto è quindi mandare questa mail farlocca, come quelle che ricevete voi con scritto clicca qua che vinci 100 milioni di euro, una cosa del genere, in una maniera magari fatta un pochino meglio. E sostanzialmente la gente ha cliccato e si è installato il softwareino malevolo sulla macchina, e quindi da lì hanno iniziato a cercare di leggere poi la corrispondenza del target. Però questo è sostanzialmente, non si capisce anche l'accenno finale, dove nella fine della faccia è scritto il tutto in modo assolutamente stealth, perché se te ne sei accorto, come non era così stealth, cioè se era stealth non te ne accorgevi, se te ne sei accorto e non è stealth, perché altrimenti sono due cose che non si sposano meno. E vabbè, comunque era per dare un'idea, insomma, di qual è il tipo di lessico utilizzato. Allora, cosa ci dice poi questo report nelle cifre? Nelle cifre dice delle cose strambe, secondo me. Penso che se noi guardiamo il report del Clusit, di cui poi alla fine vi leggo un pezzettino introduttivo, ebbene, se noi guardiamo questo report, si intuisce che la maggior parte degli attacchi sono portati essenzialmente da grosse strutture che loro definiscono cybercriminali, cioè che sono quelli che in qualche modo tentano di fregarti dei soldi. Quindi sono ransomware, crypto miners, sono truffe di qualche tipo, e questa è la maggior parte degli attacchi. Questa cosa è un po' cioè saltata, non so se perché il report è legato strettamente questo qua alle cose che minacciano la sicurezza nazionale, e quindi però non emerge questa roba dal report dei servizi. Dal report dei servizi emerge come dato, guardando un po' i grafici, uno, che non c'è una vera e sostanziale differenza tra il 2018 e il 2019, se non per piccole cose, cioè se si guarda il grafico sembrano praticamente lo stesso grafico, sembra che la parte più attaccata secondo loro è la PA, la pubblica amministrazione, che ha il 70+% di attacchi rilevati. E nell'ambito crescono gli attacchi che coinvolgono il settore. Allora, se guardo bene i colori, questo qua dovrebbe essere il settore, non si capiscono tanti colori. Comunque all'interno della PA c'è sostanzialmente una parte che riguarda in particolare gli enti regionali, provinciali, comunali, e pare che questa parte si riduca a favore dei ministeri, cioè sembra che l'anno scorso attaccavano di più i comuni e quest'anno invece di più i ministeri. Però sono le percentuali sono risibili, sono piccole. In entrambi gli anni la parte di attacchi rivolti al privato rappresenta meno del 30% di quelli rilevati. Su questa roba qui è interessante però vedere come li classificano. Cioè, uno si aspetterebbe gli attacchi privati dal report del CLUSIT si avrà come apice sostanzialmente attacchi tesi a avere dei soldi da quei privati, quindi ransomware, quindi malware, truffe elettroniche, phishing di questo tipo. Invece no, loro mettono all'apice, cioè il 70% secondo loro degli attacchi è portato da strutture legate all'activism. In particolare loro citano proprio le operazioni di Anonymous Italia, le due operazioni di Anonymous Italia, che una era OP Lavoro e l'altra OP Angeli e Demoni, e citano questo come la maggiore minaccia che interessa la sicurezza nazionale di attacchi rivolti a privati. Io questo dato non riesco a capirlo troppo, nel senso che non riesco a leggerlo, perché mentre anche in questo report, come in quello del CLUSIT, si diceva che sostanzialmente l'activism a livello proprio mondiale ha una forte inversione di tendenza, cioè ormai i principali attacchi sono portati o da attori statali molto grossi, cioè quindi nazioni che si sfidano su internet a botte di cyber war, no? A botte di business intelligence mirato verso quelle strutture che sono importanti e strategiche per l'economia nazionale, oppure gli attacchi sono principalmente portati da appunto grosse strutture di quelli che vengono definiti cybercriminali, ma grosse, cioè delle specie di multinazionali del crimine informatico, cioè cose così, dove l'activism purtroppo sparisce sostanzialmente, no? E quindi tant'è. Ma secondo il nostro report così non è, cioè non si capisce bene contando come, perché una cosa anche interessante poi di questo report è che con una frase veramente arzigogolata all'inizio si specificava che comunque non ti danno le cifre per problemi legati ovvi, cioè una roba di quelle come quando i professori di matematica dicono il resto della dimostrazione è banale, cioè per problemi di privacy loro ti danno solo delle percentuali ma non i numeri, quindi non si capisce su quanti numeri è fatta sta statistica, si capisce solo la statistica, cioè ti dicono di quelli che noi abbiamo X sono così, quindi cioè tendenzialmente non rendendomi noto il campione, non spiegandomi come fai sti conti, io mi potrei prendere qualsiasi cosa per buono e tant'è. E quindi niente, secondo loro, sebbene anche nel report si dica l'activism è residuale come percentuale, però negli attacchi ai privati comunque sta sempre più in alto. E questa è una roba che appunto non avendo. L'altra cosa interessante è che mentre si faceva riferimento a queste tecniche elaboratissime, loro hanno fatto anche uno studio proprio riferito qua. Cioè non si capisce, no? Nel senso che sì, a un certo punto i termini si mischiano. Penso che hanno fatto anche uno studio legato a questi attacchi, legati evidentemente secondo loro all'activism, e in particolare qua oltre al termine activism viene ripreso anche il termine antagonista, penso che le tipologie di attacco rilevate hanno confermato il predominante ricorso dei gruppi antagonisti, che evidentemente sono quelli dell'activism, perché prima non si era mai parlato di antagonismo legato alla diciamo alle questioni cyber, se ne parla solo qui sotto il disegnetto, quello che fa vedere che gli attacchi ai privati spadroneggia Anonymous sostanzialmente, i gruppi ricorrono a questa innovativa tecnica che risale a tipo 20 anni fa, a tecniche di SQL injection per violare le infrastrutture delle vittime, cioè il 64% del totale le hanno violate con SQL injection. E tant'è. A me mi interessava in realtà questa cosa, perché mi sembra dal report che si evinca che questo numero di percentuali e anche il fatto che abbiano studiato nello specifico le tecniche utilizzate e in particolare facciano riferimento a una giornata ben precisa nel report, che era la giornata del Million Mask March, quindi i giorni in cui tutti i gruppi di Anonymous si attivano a fare cose, mi sembra che questi studi non si riferiscano tanto a la raccolta di dati sull'arco dell'anno, ma che si riferiscano specificatamente alla raccolta di dati in alcuni eventi ben precisi in cui loro, i servizi, avevano deciso di monitorare probabilmente in maniera più precisa l'andamento delle cose. Cioè, secondo me tutti questi dati non li hanno raccolti durante l'anno, loro hanno scelto alcuni periodi ben precisi dove sapevano che secondo loro sarebbero accadute delle cose, hanno fatto uno studio su quei periodi, poi hanno sommato le robe e se fai così e uno di quei periodi è questo specifico delle attività in cui Anonymous lanciava delle campagne e se studi principalmente quelle, ci credo che poi è quella è la principale fonte di statistica e che surclassa le altre, ma solo perché delle altre te ne sei essenzialmente sbattuto cazzo. E questa cosa secondo me è testimoniata dal fatto che appunto si citano addirittura le tecniche utilizzate in una maniera secondo me anche un po' un po' cialtronesca, nel senso che appunto se si fa una statistica nella quale mi si dice che questi gruppi antagonisti, che finora appunto il termine antagonista non è mai stato utilizzato, salta fuori proprio solo qui, utilizzano tecniche di SQL injection per violare le infrastrutture delle vittime, corrisponderà al vero, per carità, e questo dà proprio la dimensione però della pericolosità a livello diciamo di sicurezza nazionale di questi gruppi, nel senso che se ci sono dopo circa 20 anni che sono uscite le tecniche di SQL injection ancora così tanti siti, così tante infrastrutture che sono vittime di SQL injection, significa che sostanzialmente è una roba praticamente alla portata di qualsiasi persona che sappia cercare la parola SQL injection su Google, questo attacco. E questa è un po' la mia valutazione. Un'altra cosa interessante del report sono poi l'accenno a questa cosa stramba che sono le minacce ibride. Queste minacce ibride sono un po' quelle che sono venute fuori con alla ribalta delle cronache, no? Con lo scandalo dei democratici americani, cioè con l'influenza che pare la Russia abbia esercitato attraverso i propri gruppi di hacker statali, diciamo pseudo statali o gente che in qualche modo fa riferimento a se sono stati i russi, si parla sempre di loro, ma non sembra una roba abbastanza documentata questa. Comunque tendenzialmente quando si parla di il tentativo da parte di una nazione di influenzare scelte politiche economiche di un'altra attraverso queste robe strane, cioè sostanzialmente pompando alcune facendo in alcuni periodi ben precisi, cercando di far uscire informazioni, cose che possano in qualche modo andare a influenzare l'andamento politico, le scelte economiche, le scelte politiche di un particolare, di un particolare paese. E questo viene definita minaccia ibrida. Ecco, cioè, loro stanno anche studiando questo, in realtà non sembra che sia una roba particolarmente presente, ecco, a livello di minaccia, se non come sì, ci stiamo coordinando e monitorando perché questa cosa non avvenga, però non viene citato alcun caso specifico poi relativo. Invece è interessante come si stanno muovendo rispetto alla rete 5G, penso che sulla rete 5G il governo ha esercitato la propria facoltà di Golden Power. Il Golden Power sarebbe quando su un qualche tipo di attività economica riferibile all'interesse strategico nazionale il governo si fa assume questi particolari poteri di controllore, per cui può richiedere esplicitamente uno che gli venga spiegato tutto quello che sta facendo, può richiedere che il soggetto proponente, cioè quello che sostanzialmente si occupa privato, che si occupa di realizzare quella particolare infrastruttura, lo faccia in un certo modo, sottostia a certe regole, a certe procedure, a certi schemi, insomma è un potere che lo Stato si arroga, insomma assume su di sé per controllare lo sviluppo di una certa struttura, infrastruttura, insomma di qualcosa che interessa l'interesse nazionale. Bene, sul 5G è stato fatto questo, è stato fatto questo su un particolare input, cioè viene rilevato che c'è di sfondo un contesto caratterizzato dal predominio tecnologico di alcuni attori e dalle preoccupazioni di altri rispetto al rischio di abuso delle nuove infrastrutture per finalità ostili. Cioè legacy, principalmente il 5G lo realizzano i cinesi, abbiamo paura che i cinesi ci mettano il pinocchietto dentro la rete e poi finiscano sostanzialmente a controllare le nostre attività di sgamo. Questo è quello che poi sta alla base di tutto questo giro di parole. Qui segue poi nel report uno schema che non si capisce, che sembra uno specchietto di pubblicità del 5G, in cui ti fa vedere quanto sarebbe bello e figo, è un po' come funziona, è un po' una roba da diciamo da poracci, nel senso che non si capisce perché in un report che è scritto essenzialmente in un linguaggio burocratico, che tanto non lo riesce a leggere nessuno se non un altro burocrate, dovevi metterci uno schemino che mi spiega quali sono le caratteristiche del 5G, ma tanto chi lo legge non capirà un cazzo, cioè digli soltanto vagamente che cosa fa, cioè di solo 5G, tanto più o meno tutti sanno che cavolo è. Una roba super interessante secondo me rispetto a questa cosa del 5G, che poi mi piacerebbe legare a un pezzo che vi volevo leggere invece del rapporto del Clusit, che è appunto quell'altro rapporto che esce sempre in questo periodo legato agli attacchi informatici. Ecco, a me mi piace tantissimo questa roba che sono tutti in paranoia, ma in paranoia pesa, per questa cosa che aumentano gli attacchi informatici e l'internet che conosciamo non è più quello lì e ci sono tutte queste strutture che sostanzialmente rendono inusabile l'idea stessa di internet commerciale pieno di multinazionali del crimine che tentano di turlupinarci il denaro, eccetera. Però in tutto questo noi facciamo il 5G, cioè noi facciamo una roba per avere sostanzialmente più cose collegate a internet, cioè siccome internet è talmente una merda che non riusciamo a garantirne la sicurezza, allora noi cosa facciamo? Ci mettiamo ancora più cose dentro, no? Cioè ci attacchiamo anche la lavatrice, perché così se avevamo un problema adesso ce l'abbiamo più grosso. E però tutto questo è sostanzialmente quello che si dice, no, è che siccome la nostra società va verso questa estrema digitalizzazione, allora noi dobbiamo porre ancora più attenzione sulla sicurezza. Dicevo, capito, ma se già avevamo un problema, già ci sfugge la situazione di mano, già stiamo nel panico, noi cosa facciamo? Pigliamo più cose e le attacchiamo ancora più su internet. È una roba che per me è misteriosa e mi fa sospettare appunto che sia tutto una grossa bufala, che non siano vere le cose, ma che alla fine non gliene frega un cazzo a nessuno, cioè che chi si occupa di sicurezza ti deve far vedere che stiamo nel panico, che chi si occupa di vendere le infrastrutture ti deve far vedere che quelle infrastrutture necessariamente vanno vendute, che ci sia un interesse ad allargare il mercato, e siccome nel mercato ci stanno sostanzialmente i servizi, perché sì, devono giustificare il proprio lavoro, la propria posizione, se no che cazzo ci stanno a fare i servizi se poi non servono a niente, e ci stanno gli operatori di security che sono interessati veramente a dire è tutto un casino, avete troppo bisogno di noi, dobbiamo spendere un sacco di soldi in termini di sicurezza. Ci stanno poi quelli che vendono la lavatrice e che la vogliono collegare a internet perché è più figo. Ci sta Google, c'è Amazon che ti vende Alexa, che ti deve spegnere la luce così fai la domotica, che capito? Cioè, ci sono tutta questa serie di cose che vanno tutte parallele e ognuno porta col suo mulino, ma senza razio, perché se io dovessi ascoltare la campana della cyber security, no? Dei security, siamo tutti nella merda, io dico vabbè, ma allora basta, cioè, ma allora stoppiamo tutto, ma allora perché mi metti a casa Alexa, che poi, capito, diventa un problema, perché mi colleghi la lavatrice, il forno di casa, il frigorifero a internet, ma non lo fare, cioè perché mi metti il 5G in modo che sono sempre connesso se poi da lì mi succede di tutto, non farmelo e io sto a posto uguale. Però evidentemente il problema non è questo, cioè il problema è che l'ansia è motore di economia e tutti in qualche modo in questo strano mondo costruiscono questa grossa favola nella quale da una parte c'è un mondo ludico fatto di gaming, di film in streaming, di consumo esagerato di banda, di che cazzo ne so io, e dall'altra parte c'è l'ansia per tutte queste cose sono tutte assieme. E sostanzialmente cosa dovresti fare? Io penso che non ascoltare nessuno, cioè penso che prendere queste cose come dei dati, guardare ok, voi siete quelli della cyber security e quindi siete quei pazzi che dicono che, voi siete quelli che mi vogliono vendere Alexa, ok, siete quei pazzi di che, e io cosa faccio in tutto questo? Dotato di libero arbitrio posso scegliere se darvi retta o no. Vi conosco bene, nel senso capisco tutto quello che dite, dopodiché decido se vi posso seguire o no. Il problema sarà appunto quel se vi posso seguire o no, cioè se mi lasceranno scegliere di non seguirvi oppure se mi dovete trascinare nel gorgo con voi, essenzialmente rimarrò anch'io vittima della vostra paranoia e mondo di follie schizofreniche. E un po' questo non lo so, rimane un interrogativo aperto. Vi volevo però leggere appunto questo report del Clusit perché in qualche modo cattura una roba che secondo me è un po' falsata nel report dei servizi, come avevo già detto. Penso che secondo me si mette l'accento su alcune cose che non hanno riscontro poi nel vero andamento di degli attacchi, cioè nell'andamento vero non lo so qual è, però diciamo nell'andamento rilevato da questo report del Clusit, che non si capisce bene perché, ma mentre quello dei servizi per ovvie ragioni di privacy, che non si capisce quale cazzo di sono, i numeri non ce li dà, ci dà solo delle percentuali, cioè non ci dice quanti sono i campioni da loro analizzati, quanti di questi attacchi eccetera, invece questo del Clusit, che evidentemente delle questioni di privacy non lo so, se ne fottono, perché loro i numeri li hanno messi e vabbè. Comunque dicevo, quello che volevo leggere è la parte introduttiva. Poi il report è molto lungo e ci sono alcuni dei pezzi che poi mi piacerebbe correlare, almeno uno almeno, al report quello dei servizi. Però questo report si apre così: nell'anno appena passato si è consolidata una discontinuità, si è oltrepassato un punto di non ritorno, tale per cui ormai ci troviamo a vivere ed operare in una dimensione differente, in una nuova epoca, in un altro mondo del quale ancora non conosciamo bene la geografia, gli abitanti, le regole e le minacce. Gli attaccanti non sono più hackers e nemmeno gruppetti effimeri più o meno pericolosi di artigiani del cybercrime, sono decine e decine di gruppi criminali organizzati, transnazionali, che fatturano miliardi, multinazionali fuori controllo, dotate di mezzi illimitati, stati nazionali con i relativi apparati militari di intelligence, i loro fornitori e contractors, gruppi state sponsorized, civili e o paramilitari, ed unità di mercenari impegnati in una lotta senza esclusione di colpi, che hanno come campo di battaglia, arma e bersaglio, le infrastrutture, le reti, i server, i client, i device, mobili, gli oggetti IoT, le piattaforme social, distant messaging e la mente dei loro utenti su scala globale, 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, una situazione di inaudita gravità che mette in discussione ed a repentaglio tutti i presupposti sui quali si basa il buon funzionamento dell'internet commerciale e di tutti i servizi online e offline che su di essa fanno affidamento. E questo è il report del Clusit, cioè, nel senso che ansia su ansia su ansia è una roba proprio folle, nella quale però si definisce bene come gli attori non sono più l'activism, cioè proprio non c'entriamo un cazzo sostanzialmente, cioè siamo completamente stati bypassati da tutto questo folle mondo di pazzi scatenati che si sfidano sul lagone elettronico per rubarti quattro soldi, per rubarti i know-how delle tecnologie strategiche per il paese, per influenzare, cioè è un mondo fatto di pura paranoia che collima solo in parte appunto con il report dei servizi. Andrebbe poi chiesto ai servizi se, o a questi reclusi, in che modo leggono i dati, appunto, perché io mi sarei aspettato che ad esempio negli attacchi al settore privato ci fosse in pole position, che ne so, ci fossero in pole position i ransomware, i malware, cioè quelle cose legate agli attacchi all'industria, no? Magari anche un'industria strategica nazionale per l'Italia, cioè che ne so, quello che vogliono loro, il settore energetico, che cazzo ne so io, il settore energetico loro lo mettono a parte, però mi sarei aspettato quel tipo lì, non mi sarei aspettato di vedere, no, il 70% degli attacchi arriva da activism. Boh, cioè, questi stanno al contrario, non lo so. C'è un nei due report ci sono delle concomitanze che probabilmente perché le citano entrambi, quindi io sono state rilevate da entrambi, in particolare nella parte del report Clusit che parla solo dell'analisi italiana che avviene appunto sui dati di quest'unità che opera all'interno del sistema autonomo di Fastweb. Entrambi rivelano appunto come ci sia un utilizzo di alcuni particolari tipi di malware che poi creano quelle che vengono dette delle botnet, cioè l'idea è quella di buco tante macchine e poi da un'infrastruttura che sta su internet posso comandarle utilizzando un canale di cosiddetto command and control. Ecco, tutta questa roba qua di solito è tesa a creare delle grosse reti di computer infettati, insomma, di cui l'attaccante ha preso il controllo e che poi può dirigere facendo cose. Queste botnet di solito si fanno parte spesso di software, cioè vengono realizzate con software che si acquistano, nel senso che ti viene venduto anche il modulino per fare una certa cosa piuttosto che un'altra, nel senso che tu puoi costruire di base, poi queste botnet vengono create indipendentemente da qualche volta, e poi ti viene venduto il modulo, che ne so, per fare il keylogger, quindi se te lo vuoi sfruttare per carpire dati dalla macchina vittima ti viene venduto quello, e quindi è modulare l'approccio, nel senso che ci sono queste grosse botnet che magari possono essere usate per esfiltrare dati finanziari, dati privati, anche solo indirizzi, numeri di telefono, tutte queste cose per nell'ambito dei call center hanno del marketing, quello che ti arrivano le chiamate a casa hanno un valore, tutto questo ha un proprio valore, ecco. E in queste, diciamo, entrambi i report, cioè sia quell'altro sia quello dei servizi che quest'altro, citano ad esempio l'utilizzo dei NAS, non i NAS nel senso quelli insomma quelli della Guardia di Finanza, ma no, dei carabinieri, insomma quelli del nucleo, quelli che si vedono per televisione che fanno le perquisizioni dentro ai bar, ma bensì quelli che sono quegli apparati con tanti dischi che servono come storage per i dati. Ebbene, entrambi questi due report segnalano come parecchi di questi malware abbiano dei moduli per installarsi sui NAS e poi da lì possono appunto cifrarli, possono usarli per esportare informazioni, e questa è una roba che è comune nei due report, che secondo me è troppo particolarizzata per pensare che non si siano parlati in qualche modo. E quindi o il report del Clusit ha letto quell'altro, o questi hanno letto loro e poi hanno usato le statistiche. D'altra parte ha un senso, perché appunto i due report escono praticamente a 2 mesi di distanza l'uno dall'altro, e entra e almeno quello del Clusit cita come completamento delle proprie fonti le fonti del report dei servizi, cioè quegli organismi che vengono anche citati nel report dei servizi come acquisiti, diciamo, la fonte di queste statistiche. Quindi o uno o l'altro sono in qualche modo in contatto. Per quello appunto a me non mi tornava, però poi la differenza su alcune questioni. Molto altro come commento a questo report non ho, mi sa che ho già parlato parecchio. Vi lascio magari con un po' di musica e la chiudo qui, magari riprenderemo poi il discorso in qualche puntata più spot, più magari più con qualche argomento più mirato, in qualche puntata del lunedì di Coccoli al Silicio, che è la trasmissione che conduco normalmente, che appunto parla di cose informaticose. E quindi niente, vi lascio con un po' di musichina, un jazzettino tranquillo, e chiudo la mia analisi, spero non troppo a caso, di questo report dei servizi e del report sugli attacchi informatici dei Clusit. Un buongiorno a tutte e a tutti. Musica. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore.